A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Non so, sarà il primo sole della primavera dopo un sacco di pioggia che stiamo peraltro ancora aspettando, ma questi sono dettagli. Ormai è finita, sarà per questo, ma ci è venuto voglia di riparlare di un grande evento che di mare innanzitutto ci è venuta voglia di parlare, di un grande evento che si svolgerà in Italia a novembre di quest'anno a Levanto. Ve ne ho già parlato un'altra volta, non so se ricordate, spero di sì, il mondiale di surf. E voi tornerete a dire: ma come a Levanto il mondiale di surf? Sì, e adesso vi spieghiamo come e perché. Poi parliamo anche di calcio, parliamo di basket, parliamo di una Formula 1 che non ci dà grandi sensazioni dopo la prima griglia di partenza stagionale. Però partiamo da qui e dal surf, con un surfista molto famoso che è qui vicino a me. Sergio Muniz, buongiorno. Buongiorno. Ciao Sergio. E poi c'è anche chi di questo mondiale sta curando l'organizzazione, cioè il mio amico Riccardo Belli, presidente di Reset Comunicazioni, nonché agente di un signore che tra poco sentiremo pure, un altro surfista famoso che si chiama Danilo Gallinari. Riccardo Belli, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a voi. Allora, Sergio, tu e il surf, com'è sì, questa storia? Io il surf è una lotta, diciamo, cioè? Che fare surf è una continua lotta, è una ricerca continua dell'onda, no? Di andare sempre a prendere onde in un mare capriccioso, perché il mare è così, diciamo, non sempre ti manda le onde, quindi è sempre lì una ricerca continua. Ma l'abbiamo imparato anche nei film, no? Certo. A caccia dell'onda perfetta. Esattamente, non finisci mai di andarla a trovare, perché quando trovi un'onda quasi perfetta dici: però ci potrebbe essere di meglio, ecco, e vai a cercare. Ma a che livello sei col surf? No, io sono ovviamente un professionista. No, vai anche tu a fare il mondiale? No, figurati, sono troppo vecchio, a parte di tutto questo. Usano wild card. Sergio ci sarà. Io ci sarò ovviamente per promuovere, per animare un pochettino la situazione, e poi soprattutto perché mi piace, perché non potrei mancare, diciamo, anche se non facessi parte di niente, io sarei lì comunque a vedere, ecco. Allora, ascoltatori e ascoltatrici che vogliono parlare con noi oggi, 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Professore Riccardo Belli, raccontaci questa storia del mondiale di surf in Italia. Io vorrei dire, avete ascoltato Sergio, la passione di Sergio quando parla del surf. Io dico che questo è uno sport da usare con cautela, perché quando ti prende non ti lascia più. Sì, assolutamente. Ci sono 60.000 appassionati in Italia che urlano tutti i giorni questo sport e vivono per questo sport. Noi cerchiamo di sdoganarlo in Italia con un evento incredibile, di cui sono l'organizzatore, ma sono davvero felice di averlo, perché a novembre ci sarà la finale mondiale di longboard. Noi ricordiamo Hawaii, Bali, posti incredibili, il film Mercoledì da Leoni, ecco, lo avremo in Italia a novembre. Questo è un orgoglio per noi, ci dà una mano la regione Liguria, la città di Levanto, perché Sergio, ti invito a dirlo, Levanto ti ha conquistato. Levanto mi ha conquistato, sono andato per fare le passeggiate verso le Cinque Terre, quando ho scoperto che c'erano pure le onde, allora lì non mi hanno più fermato. Senti, niente, onde ci sono, mi sono fermato. Io lo dico ai miei amici, dico: oh, guarda che a novembre sono... incredibile, no? C'è la verità, ma le onde a qualunque Levanto. Posto dove ci sia mare ci sono onde, ovviamente, sì. Più grosse, meno grosse, con più, diciamo, più spesso o meno spesso ci sono onde. Ci sono dei posti più fortunati, come per esempio la costa della Liguria o l'ovest della Sardegna, che hanno anche una quantità di onde, nel senso, nell'arco di un anno, molto grossa, anche molto facilmente paragonabile alla quantità di onde che arrivano in un mare, in un oceano, ecco. Non arrivano sopra i 4 metri di solito surfabili. Quindi questo è un limite, no? Nel senso che, però è un limite che non c'entra niente, diciamo, per poter fare un campionato, perché non si usano onde di più di 4 metri per fare un campionato, sì. Perché da sopra una certa misura allora diventa uno sport estremo. Allora, è come adesso... dire fare sci estremo, sì, o sì, fare sì. Lo slalom. Adesso ti faccio una domanda da surfista, poi ti faccio una domanda da attore invece. Sì, sì. La domanda da surfista è questo: vedremo i 32 più forti surfisti longboard, sì. Spiegami che cos'è il longboard. Longboard è una specialità Nella quale si usa una tavola lunga, così come la parola stessa dice. Di solito sono sui 8-9 piedi, ecco, di solito 9 piedi. Quindi quasi, facciamo quasi 3 metri, non arrivano. Allora è una tavola lunga nella quale, diciamo, tu riesci anche a camminare. Quindi è un stile completamente diverso al short. Il shortboard è una tavola molto più corta, molto più agile, più difficile da controllare. E il longboard è, diciamo, quello che abbiamo visto in Mercoledì da Leoni e tutte queste tavole qua, quelle di una volta. Diciamo è un po' il vecchio surf, il surf, diciamo, più autentico, chiamiamolo così, anzi autentico. Ormai io sono un shortboarder. Shortboarder? Sì, sì, io faccio... Però anche con l'altra... Beh, ci sto ovviamente, però se mi danno a scegliere preferisco quella più corta. Possiamo dire che c'è la differenza grosso modo tra lo slalom e la discesa libera? Ci sta? Beh, ci potrebbe stare, ma è no, più secondo me c'è un CBR, un Harley Davidson. Onda ecco. CBR e Harley Davidson. Esatto, bravo, ecco. Un'onda CBR è una shortboard e un Harley Davidson... Guarda, esatto. Per me che sono motociclista ho già capito tutto, non so, gli ascoltatori ma credo bel paragone. A che punto siamo con la macchina organizzativa, professor Belli? Siamo a buon punto, abbiamo a bordo dei buoni partner e stiamo lavorando, siamo in anticipo, ma è importante che questo evento non ci siano errori in organizzazione di questo evento. E siccome io sottolineo sempre, noi aspettiamo l'onda. E questo è l'aspetto romantico di questo sport, perché ci sarà un waiting period di 16 giorni e Levanto vivrà 16 giorni con 1000 iniziative organizzate anche dai partner locali. E in questi 16 giorni noi aspetteremo i famosi 2 giorni in cui queste onde ci potranno regalare delle gare magnifiche. Io vorrei aggiungere però una cosa a quello che ha detto Sergio. Il longboard è uno stile di vita, cioè essere romantici. Significa fermarsi a guardare la natura. Io quando vedo entrare i longboarder al mare, entrano piano, guardano l'onda, l'aspettano la via per uscire. Cioè questo sport ti fa innamorare e capisci e respiri la natura. Questo secondo me è il grande valore aggiunto, al di là poi che diventi moda, che piaccia, che ci siano sicuramente dei bellissimi ragazzi. Sergio ne è un esempio, ma insomma il surfista... C'è un po' di tutto, delle bellissime ragazze. Ecco, questo sicuramente aiuta lo sponsor, aiuta i partner, però la partenza è sana, è uno sport meraviglioso e pulito. Questo secondo me oggi ci deve far pensare molto. Quanto surf fai? Quanto ti alleni? Quanto ci vai? Dipende dalle onde. Quest'anno poco, perché non sono arrivate tantissime. Per esempio weekend scorso non acqua, e anche settimana prima. Poi dipende dai miei impegni di lavoro. Per esempio, ho fatto un lavoro a Savona, c'erano onde a Varazze, quindi sono andato. Hai preso la tavola e sei andato? Sì, prendo furgone, tavola e vado a lavorare. E ovviamente se devo entrare alle 10, io alle 6 del mattino sono in acqua per uscire verso le 9 e alle 10 sera al lavoro. Ecco. È una specie di malattia. No, è proprio una malattia. Anzi, è serissima poi. Anzi, è stata addirittura studiata proprio questa ossessione del surfista. Sì, sì. Sì, perché immagino, e ce n'è, esiste. È una cosa che la guardi da fuori e dici, ma come si fa? Poi una volta che provi, una volta che impari... Non è molto facile da descrivere, perché veramente quello che una persona può descrivere con parole non arriva sicuramente alle sensazioni che ti può dare surfare un'onda, surfare il mare vivo, proprio un movimento libertà, continuo. Il senso di libertà è simile a quando vai in moto, perché, non lo so, perché però è diverso, perché la moto comunque ha un motore, ti spinge, comunque il motore che lo guidi te ovviamente, però la tavola è inerte, la devi usare te con i tuoi piedi e con la forza cinetica, diciamo, di un'onda che ti spinge. Ma avranno capito i radioascoltatori. E poi ogni onda va interpretata. Spengo il microfono, pianto qua tutti, vi lascio. 800 24 00 24, numero verde, traffico 349 238 6666, messaggi, traffico, poi torniamo. Dunque torniamo insieme, sempre qui vicino a me, Sergio Muniz, surfista, nonché attore, o attore, nonché surfista. Non so cosa preferire. Un po' tutto, dai. Mi piacerebbe poter vivere del surf, invece non è possibile. Allora si iscrive ai mondiali, lo vince, Riccardo e poi Belli. Non sarei capace, anzi sarebbe proprio la rovina della mia immagine come surfista. Ecco un altro surfista che è un po' lontano da Levanto e anche da qui. Danilo Gallinari, ciao Dani. Ciao, ciao a tutti. Come ciao Gallo. Come stai? Bene, bene, molto bene. Voi? Noi non c'è male, non c'è male. Stiamo parlando di surf e di mare a Milano, quindi ho in voglia di spegnere tutto e partire, però pazienza, resisteremo ancora un po'. Ma tu fai surf? Hai mai provato? Hai mai avuto questa tentazione, magari andando a giocare a Los Angeles e guardando quelle spiagge? Guarda, io il surf lo iniziai nel lontano 74, sono nato nell'88, però non ho mai provato. Ma vuoi provare? Ma se si trova del tempo d'estate potremmo anche provarlo assieme e andare a vedere com'è. Sì, ma lui è, secondo me sarebbe un bravo longboarder. Sì, ma anche d'inverno, guarda che basta mettersi una muta, una bella 4-3 e vai in acqua che non passi nessun freddo, Capito? D'inverno no, Se no veniamo a trovarti noi lassù in montagna dove sei andato a giocare, lì a Denver. Come ti trovi a Denver? Molto, molto bene, molto bene. Insomma, sono arrivato in una società, secondo me, super. Quindi non posso lamentarmi. Hai perso forse New York, la città di New York, il palcoscenico di New York, però a giudicare dai risultati, quelli della notte compresi, hai trovato una squadra forse più competitiva, Danilo. Sì, sicuramente squadra più competitiva, anche perché qui a Ovest è molto più difficile, è tutto, insomma, sono molto più attaccate le squadre che devono andare ai playoff, quindi sicuramente la città è diversa, non è più facile per i miei amici, la mia famiglia, venire su avanti e indietro come facevano prima, però sicuramente la squadra va meglio. Riccardo, cosa ne pensi? Ciao Gallo, innanzitutto. Io ti vedo longboarder prima di tutto. Tu continui a dire che non lo sei, ma io ti vedo benissimo. Con la muta... La tavola è 2,80 m, tu sei 2,09 m, perfetto. Allora, facciamo così, quando prova lui anch'io. Dobbiamo provare tutti insieme. No, io inviterei Dani a parlare di questa esperienza che da New York a Denver in 48 ore. Questo secondo me l'immaginario comune fa fatica a capirlo, soprattutto abituati agli sport italiani dove gli atleti hanno tutta un'altra modo e modalità di passare da una squadra all'altra. E vorrei sottolineare la professionalità e un'altra volta la maturità di Danilo nell'affrontare una nuova esperienza sempre con entusiasmo e con voglia, perché non è facile. Quando parla lui sembra che sia tutto facile, ma non è assolutamente facile. Quindi vorrei innanzitutto fargli anche complimenti per questo. È una domanda, Gallo, dimmi. Ti ringrazio Ricky, no, però sì, sicuramente insomma l'NBA funziona così e devi essere pronto in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento a cambiare squadra, a cambiare città e probabilmente magari andare a volte in situazioni che non sono come quelle dove eri. Io sono stato fortunato a arrivare in una situazione che in palestra, e quindi parlando di pallacanestro, è meglio, probabilmente stiamo andando meglio che New York, quindi mi è andata sicuramente bene, però non è facile perché devi cambiare. Io ho ricevuto la telefonata il giorno prima della fine, dell'ultimo giorno dove c'era la possibilità di fare le trade, della finestra delle trade. Ho ricevuto la chiamata del mio agente alle 10:30 di sera, mi ha detto guarda che domani devi essere a Denver, quindi alla sera ho preparato velocemente due borse e la mattina dopo ho preso il volo e sono andato a Denver, quindi è stata una cosa così, insomma. Beh, anche la scatola pronta, le practice facilities dei Knicks, non è male, quando sei andato a prenderla, con tutte le tue cose. Ti fanno lo scatolone con la pianta, come nei film. Ti è molto americano, molto americano. Esci con lo scatolone. Sergio, vedo che sorridevi al racconto di Danilo. No, infatti, mica perché facile, non deve essere facile per niente, anzi, nel mondo della moda e anche nel mondo dello spettacolo, è un continuo cambio, no? Sì. Diciamo, fai un lavoro qua, un lavoro là, no? Però c'hai una base di solito. Però così, un cambio di base così repentino deve essere scioccante, sì. Eh sì, ma immagino di sì. Danilo, com'era quel messaggio che hai scritto su Twitter il giorno dopo sull'aereo dei Nuggets? Quello in dialetto. Se ricordi più, No, non mi ricordo cosa ho scritto. No, non viene in mente neanche a me, però sono morto dal ridere per circa un'ora. Lo potevano capire giusto a Lodi e dintorni. Immagina gli americani, esatto, che cercavano di tradurlo. Ma spesso scrivo in dialetto, perché giusto fa parte, secondo me, della cultura. È secondo me è cultura, è un'altra lingua, quindi è cultura, e quindi è una cosa che a cui sinceramente tengo molto. Mio papà ci ha tenuto molto a insegnarmelo quando ero piccolo, a parlarmi in dialetto, e quindi si continua a parlare in dialetto. Ma of course, assolutamente. Bella cosa, davvero. Tu parli dialetto basco? Io ho studiato basco, ma non lo parlo perché in famiglia non lo parliamo, perché mia mamma è della Rioja, mio papà è di Samora, quindi io sono arrivato qui quando avevo 19 anni, quindi qualunque cosa abbia potuto studiare, perso completamente. Io ti chiedo ancora questo: chi lo vince il derby sabato prossimo? Guarda, secondo me lo vince sicuramente l'Inter. Lo vince sicuro l'Inter, davvero scaramantico, bravo, bravo. Non tanto scaramantico, Lo vince di sicuro l'Inter, no, e vince anche lo scudetto, giusto? Esatto. È così. Sì. Danilo poi azzecca sempre, bravo. Senti Ricky, mandiamola a lavorare, che allenamento. Buon allenamento, Dani. Ciao. Ciao Dani. Vi ringrazio, un abbraccio. Ciao Danilo. Come sei messo con la pallacanestro, Sergio? Ma me la cavo con il mio 1,90, poi ho qualche facilità. Barcellona o Real Madrid? Nessuno dei due. Facciamo vittoria. Vittoria, sì. Facciamo vittoria. Sì. Giocano bene anche i ragazzi là. Sì, non male. Poi volevo parlare con te anche di sport spagnolo, perché sono, a proposito di surf, sulla cresta dell'onda. Non so se ci sono surfisti spagnoli, se ci saranno surfisti spagnoli. Due surfisti spagnoli molto molto forti ci saranno. Sì. E tu farei tipo per loro? Io faccio tifo per tutti alla fine, perché per me, diciamo, anche il longboard è un po' meno competitivo forse del shortboard, quindi credo che sia bello proprio tutto, che chi vinca il migliore, chi vinca quello che ha preso le onde migliori. Senti, la domanda cinematografica invece che ti volevo fare, poi parliamo con Carlo della provincia di Monza che è già in linea, è questa: il tuo film preferito sul surf? Sappiamo che il surf è forse il più cinematografico degli sport, o uno degli sport più cinematografici, anche se molto difficile da girare, visto che comunque è in acqua, e mettersi dentro dell'acqua, diciamo, a girare con onde magari. No, Mercoledì da Leoni l'hanno visto tutti. Sì. Il mio preferito resta quello dei Presidenti. Point Break. Il mio preferito. Point Break è molto bello, anche perché, vabbè, è una storia che usa il surf, diciamo, come intorno, ma comunque la storia è molto avvincente, recitazione perfetta, regia perfetta, quindi sì, sicuramente il miglior film, diciamo, dove di surf. Parliamo di surf, vabbè, hai un thriller, però parliamo di surf. Adrenalina, acqua, surf, paracadutismo, pistole, maschere dei presidenti. Tu, Ricky? Sì, Mercoledì da Leone. Voto Mercoledì da Leone. Classico, sì, perché è il romantico, è proprio il longboard. Sentiamo cosa ci dice Carlo, buongiorno. Sì, salve, niente, sentendo parlare di surf mi ha fatto fare un viaggio indietro nel tempo, perché parlando di windsurf invece, che ho incominciato nel 60, io purtroppo per fortuna ormai ho 70 anni, mi ricordo la prima tavola di 4 metri e i primi esperimenti li abbiamo fatti sulla costa della Croazia, quando con la roulotte giravamo su e giù per la Croazia, e erano sensazioni di libertà assoluta, una cosa emozionante. Poi nelle isole a sud di Zara, girare con la tavola in questi posti, naturalmente in luglio-agosto, d'inverno l'ho fatto dopo, sull'alto lago a Dongo e dintorni, e poi a San Moritz, non è Pontresina, cos'è quella? A Silvaplana, che ci sono dei surfisti che non, io non ero a livello, ero a livello di dilettantesco, ma era una cosa. Prima sentivo parlare questo che parlava di surf. Il surf è una cosa che non riesco a immaginarlo, perché è fermo, dipende dall'onda, mentre invece il wind, se poi sei al mare, ma anche al lago, perché il Como, la parte alta del lago, ci sono dei venti che che sono una cosa, o Silva Plani in particolare, un altro, questo sulle zone che ho visto. Insomma, vi ringrazio perché mi avete fatto in mente delle cose che ormai sono 5-6 anni che non faccio più, perché l'età ti blocca un pochettino, anche perché stai è la voglia che bisogna farsi tornare. Carlo, ascoltare la natura. Io, il surf dipende dall'onda, il windsurf dall'onda e dal vento. Siamo vicini, molto vicini. No, io ho anche questo messaggio di un ascoltatore che scrive: ho provato a fare surf ad Anglet, se l'ho letto giusto, non sì, lo so. Anglet. Ed è vero, la prima volta che riesci ad alzarti sulla tavola è indescrivibile. Sì, è davvero indescrivibile. Anzi, Anglet è un bel posto, è un paese vasco-francese, non lontanissimo da casa mia. Tra l'altro, Paesi Baschi, insomma, sull'Atlantico. Esatto. Atlantico è patria di surfisti, di gente che fa sport di mare. In Europa credo che sia ormai la capitale del surf. C'è tanta gente lì che fa sport. E quella sì, ma anche qua in Italia, l'Italia è pienissima. Se uno va in una giornata normale di onde a Levanto, per esempio, riesce a trovare anche 300 individui in muta dentro l'acqua, magari anche d'inverno, con un freddo incredibile. Voi non lo vedete, ma c'è Carlo che ride perché non ci crede. Pazzi. No, io ho imparato a crederci. Ho imparato a credere da quando me l'hai raccontato tu, Riccardo. Ci fermiamo per una brevissima pausa, poi torniamo. 800240024, il numero verde sempre come Sergio Muniz, Riccardo Beglia, tra poco. E rieccoci sempre qui con Sergio Muniz, un surfista molto famoso, e con Riccardo Belli, presidente di Reset, che sta organizzando questo mondiale di surf in Italia di cui stiamo parlando. Altro ascoltatore, Alessandro da Milano, già in linea. 800240024, numero verde. Prima parliamo con Alessandro, poi dico una cosa su quanto sia, anche oltre che cinematografico, insomma, anche particolare questo sport, questo modo di vivere il surf, anche nei suoi drammi, che sappiamo sono storia recente, con un surfista molto famoso, Sion Miloski, che ha provato a cavalcare un'onda impossibile. Alessandro, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Allora, niente, mi è fatto piacere sentire una radio che parlasse di surf, che in Italia non si parla mai di questo sport. Io ho 38 anni, ho iniziato a fare surf a 17 anni e dico che è lo sport più bello del mondo. Confermo. Confermiamo Alessandro. A me, diciamo, la mia esperienza personale mi ha attratto questo sport, praticato da amici quando avevo 17 anni, cioè mi hanno tirato dentro piano piano e ho cominciato. La cosa che ho apprezzato di più, che mi ha fatto girare il mondo, fortunatamente ci sono le possibilità, quindi a Hawaii, Indonesia, Brasile, abbiamo fatto un po' tutti gli spot, diciamo, famosi che ci sono in giro per la terra. Adesso un pochino meno, perché con moglie e figlio posso fare meno viaggi, anche se settimana prossima parto per le Mauritius. Dico a tutti i ragazzi che magari stanno ascoltando, invece di andarsi a ammazzare di calcio alla domenica allo stadio, pestarsi sugli spalti, fate uno sport del genere, che è sano, è la cosa, una sensazione che penso che qualsiasi altro sport non lo possa dare. Io ho fatto anche motocross, ho fatto tanti altri, ma la sensazione con la natura, con questo che si ha, con questo sport, è unica. E quindi dico a tutti, provate, perché la cosa più bella del mondo. Alessandro, si conquistano tante ragazze. io e Riccardo le lasciamo ai ragazzi, sì, qui, assolutamente. No? L'età non lo consente più. Assolutamente. La nostra, poi gli impegni. Non è vero, guarda, si può fare sempre a qualunque età. Alessandro, lo chiedo a te da surfista: questo mondiale in Italia cosa può portare, cosa può dare? Ma se pubblicizzato nella maniera corretta, penso che possa portare informazione e conoscenza di uno sport in Italia poco praticato, oltre ai 60.000 praticanti di questo sport. E dipende tutto, appunto, come viene. Purtroppo la pubblicità è quello che fa la differenza, su uno sport che magari la gente non conosce. È una bellissima iniziativa, perché è una tappa di Coppa del Mondo in Italia, ragazzi, è tanta roba, eh. Quindi secondo me è molto positivo, ben vengano queste cose. Se organizzate bene, meglio ancora. Sì, ma su questo non ho tantissimi dubbi, insomma. Ci proviamo, questo, Alessandro. Ti aspettiamo però, Ti aspettiamo. Quindi ricordati, novembre Levanto. A Levanto. Ed è la finale, non è una tappa, Alessandro. È addirittura la finale, infatti. Prendi le ferie. Grazie Alessandro, buon viaggio. Ok, grazie a voi. Ciao Alessandro. Ciao. Buon viaggio. Dicevo prima di questi eventi, anche drammatici, no? Che hanno sul surf. Ad esempio c'è, in questo caso non c'entra con una gara, però Andy Irons, che è stato uno dei più grandi surfer del mondo, che è stato trovato morto in una camera d'albergo a novembre. Insomma, è l'alone che c'è intorno al surf, quasi magico, quasi misterioso. Esatto. Poi ci sono tanti comunque di morti, diciamo, famosi. Poi Eddie Aikau, per esempio, sul quale hanno fatto anche un contest, diciamo, di onde giganti in Hawaii, morì a Waimea, no? E dopo la sua morte si fece questo invitational, diciamo, dove vengono invitati dei migliori surfisti, diciamo, di onde grosse del mondo, e non si fa ogni anno perché non ogni anno riescono ad arrivare le onde, diciamo, di sopra i 10 metri, certo, che vengono richiesti per fare questo contest. Sì, stiamo parlando di surf estremo. Questo è surf estremo. Poi c'è Sean Miloski, invece, che questo surfista che è morto la settimana scorsa, ha cercato di domare l'onda più alta mai cavalcata finora, 18 metri e 3. È stato travolto dall'onda. A te è mai successo di avere paura? Certo, avuto problemi? Fa parte del gioco, diciamo. Fa parte del gioco, ovviamente. Ma quanto è rischioso? Quanto è pericoloso? Tutto dipende di dove ti vuoi spingere, ovviamente. Come lo sci, no? Diciamo, fare una discesa su una pista verde, diciamo, non lo so, vabbè. Non è tanto rischioso. Se tu ti butti magari da un precipizio di 50 metri... e tutto diventa molto più pericoloso, ovviamente. Tutto dipende dalle capacità, dalle possibilità anche di ogni persona, perché ci vuole anche una tecnica, un'esperienza. E poi sì, per forza, ovviamente è un liquido, diciamo, non è la casa nostra, ecco. Anche puoi essere un nuotatore bravissimo, ma se capiti nel momento sbagliato, nel punto sbagliato, rischi, certo. A te è successo? Certo, fa parte del gioco anche quello, infatti. Però è bello anche quello, diciamo, ti dà quella adrenalina. Ti misuri con la natura. Ma si può fare tranquillissimamente con onde magari di un metro, anche fino a due metri, in spiaggia, tranquillissimamente, in piena sicurezza. Assolutamente. C'è Claudio che scrive: la prima volta che riesci a star su una tavola ti senti Dio, senza essere blasfemo. No, diciamo più che Dio, di Gesù Cristo, cammini sulle acque. Quello è vero. Fabio da Roma, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Fabio. Io sono un surfista dell'ultima ora. Ho cominciato in tenera età, a 50 anni. Ah, però, bravo, Fabio, vedi, si può iniziare anche a 50 anni. Aspetta che mi fermo, non sento benissimo. Sì, ho cominciato a 50 anni, io ne ho 53 adesso. E sono un polisportivo, diciamo così, perché faccio variati sport, tra cui il volo libero con il parapendio, il deltaplano, eccetera. E ho cominciato perché ho avuto una crisi mistica con il volo a causa della famiglia, i figli, eccetera. Quindi ho dovuto trovare, ripiegare su qualcosa di più, diciamo così, facile da esercitare. E ho scoperto questa cosa, che invece non era assolutamente un ripiego, ma è un'emozione che è paragonabile a quella del volo libero, che è difficilmente spiegabile, naturalmente. Beh sì, è piuttosto immediato il collegamento. Entrambi gli sport comunque portano adrenalina, entrambi gli sport ti portano a contatto con la natura. In entrambi gli sport insomma c'è l'elemento naturale che è determinante, quindi mi sembra un collegamento abbastanza immediato. Insegna molto anche, diciamo, a una persona il dover essere guidato dalla natura, perché non è come magari il calcio, che dici vabbè, esco con una palla e gioco, no? Diciamo, lì devi aspettare l'onda. Se l'onda c'è, bene, se l'onda non c'è. Poi è uno sport individuale, non c'è scontro. No, di solito non hai nulla. Esistono scontri anche devi essere sinuoso, devi seguire la natura, perché altrimenti cadi. Poi io descriverò cosa vuol dire cadere, per i profani, perché non si è spiegato bene. Poi lo spiego. Ci sono diversi modi di cadere, guarda. C'è perché il famoso i surfisti fanno tutto semplice, ma io sono caduto e devo dire che quando sei sotto a testa in giù e non sai dove devi nuotare, perché sei dentro l'onda, è una sensazione meravigliosa. Poi devi avere un po' di apnea, un po' di resistenza. però quando sali sei l'uomo più felice del mondo, perché sei stato 3 secondi sulla tavola. Senti, ma c'è una scuola, cioè come sì, avete iniziato? Sì. Cioè tu hai preso una tavola e sei andato in mare o c'è qualcuno che ti ha spiegato? Io ho iniziato in Sudafrica un po' di anni fa, più di una decina d'anni fa, con un amico. Con un'altra persona che comunque sapeva, però sì, esistono delle scuole, anzi delle scuole anche molto serie dove si vuole addirittura il brevetto, diciamo, per poter insegnare surf e tutto, sì. Quindi anche in Italia ne trovi quante ne vuoi, un po' dappertutto, in tutta la costa italiana, e si può insegnare, si può imparare tranquillamente in una scuola o anche da autodidatta, diciamo, quello è sempre meglio comunque seguire qualche lezione, perché ci sono delle cose da sapere anche per la sicurezza, certo. No? Nel senso, non un'onda, un uomo, per esempio, non cercare di prendere le precedenze, esatto, cioè le precedenze, esatto, chi prende prima l'onda magari la precedenza, perché sennò rischi di colpirti, no? Certo, l'uno con gli altri, certo. Non è piacevole. Matteo da Udine, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per darmi la possibilità di intervenire. Grazie a lei. Io adesso non so chi sono gli ospiti in studio, anche perché ho acceso la radio da poco. Sono però così Sergio Muniz. Sono Sergio Muniz, che lei conoscerà, famoso surfista, e Riccardo Belli, che è l'uomo che sta organizzando questo mondiale in Italia. Allora, io da praticante amatoriale, appassionato da ormai più di 20 anni di surf, ho teso l'orecchio quando ho sentito che si parlava anche dei recenti, purtroppo, tragici eventi. Sì. Volevo così dare un piccolo contributo, che ovviamente esula un po' anche da probabilmente dall'intervento più pacato e morigerato che avete fatto voi, solo perché, come dire, trovo che si parli di surf solamente quando, almeno nell'ultimo periodo, solo quando ci sono questi eventi tragici, quindi si tende a usare spesso questi toni anche sensazionalistici dai media generalisti, dicendo appunto il riferimento anche al caso del povero Sion Miloski, che è morto a Mavericks, sì. In California del Nord, in Oregon. Era un ragazzo che io lo seguivo così sui vari siti, sui vari blog americani, era il classico underdog, un ragazzo che così hawaiano, non partecipava ai contest, ma aveva un nome che stava diventando sempre più importante, soprattutto nel big wave riding. Ecco, parliamo di, come è stato detto prima, di surf estremo, ma è morto facendo quello che chiamava di più la sua passione, ma non mai ecco, non mi sono piaciuti, anche perché non corrispondono al vero questi titoli sparati di onde di 25 metri, morto mentre prendeva l'onda più grande. Non è così, non era così. Chi certo. Legge, chi si è documentato, ha potuto vedere che era una giornata Maverick come tante altre, con onde oltre i 25 piedi. Ma ecco, parliamo di questo, parliamo di un ragazzo che sapeva i rischi a cui andava incontro, come tanti altri. Parliamo di tutta la sicurezza di cui si sta parlando adesso, che è una tematica importante, su uno sport che per molti viene visto ancora come una forma di macismo e non invece come appunto una passione che deve essere vissuta, ma che comunque dovrebbe essere vissuta il più possibile in sicurezza. Ecco, tutto qua. Grazie Matteo. Per radio, vi ringrazio. Sergio, grazie. Che dici? Assolutamente, sì, è vero. Io non so molto bene questa vicenda qua di questo ragazzo che è morto a Mavericks, perché non ho letto molto adesso di questa vicenda qua, però si è mai detto onde di 18 metri, sicuramente non era una delle più grandi cavalcate, si sono cavalcate anche delle onde più grosse. C'è gente che vive facendo proprio queste cose qua. Sì, beh, che ci sia un rischio insito in assolutamente, in tutto quanto, ma se vedi quante persone lo fanno e quanti muoiono, alla fine veramente la percentuale è molto bassa. È molto bassa, nel senso che non è uno sport nel quale, diciamo, si muore facilmente, anche quando diventa uno sport estremo come questo qua. Ovviamente la gente è molto preparata, ormai si sono raggiunti anche dei limiti di sicurezza con i jet ski, con le moto d'acqua, con i gilet, per esempio, di salvataggio che usano e tutto. Non è che vanno lì, non sono sprovveduti, che si buttano in mezzo al mare perché dicono voglio morire, no? Certo, non è assolutamente questo è però vero. Sai, tornando al discorso di prima, la gente ha visto colpisce molti film. Colpisce molto, però per quello, secondo me, è molto importante anche questa gara, questo mondiale, che potrebbe sdoganare il surf in Italia come competizione. Come competizione, anche, diciamo, come immagine anche italiana, diciamo, del mare. Sicuro. Non soltanto che uno pensa al surf, per esempio, vede una pubblicità dove c'è un surfista della... e dice California, Hawaii, America, certo, Hawaii. Certo. C'è anche qua. Questa è una parte molto importante. Infatti, che risponde alla domanda: ma come il surf in Italia levanto? Sì, signore, il surf in Italia levanto. Traffico. Torniamo insieme, Sergio Muniz, Riccardo Belli qui con me, 800 24 00 24, il numero verde. Domani, lo dico quasi comunicazione di servizio, hanno tutto il modo di parlare di calcio, della nazionale, dell'attesa per il derby, della Formula 1, nella quale insomma qualche timore ce l'abbiamo dopo le prime prove con Alonso quinto, grandi difficoltà per la Ferrari, forse inattese come hanno detto gli stessi ferraristi. Sergio, tifi Alonso tu? Certo, tifi Ferrari? Tifo Alonso e tifo Ferrari, tutte e due. Alonso su Ferrari. Forse più Alonso che Ferrari, ma sì, tifo tutte e due, anzi adesso un connubio perfetto secondo me. Poi, secondo me poi in gara Alonso è uno che dà molto, quindi forse quel quinto posto può migliorare molto, anzi. Anche non se... è uno che si arrende così facilmente. No, è un duro. Fernando è un duro. Come lo vedi, Ricky, tu? Qualche decimo in più degli altri, secondo me, Alonso ce l'ha. Sì. Io lo vedo. Le strategie poi sono giuste, l'età giusta. Senti, Sergio, ma dimmi una cosa: ma questa esplosione dello sport spagnolo, allora, qualunque cosa facciate, io comincio quasi a tifare contro. Siamo amici, Sergio. Non ci è mai successo nella storia, proprio. No, capito, però. Allora, lasciateci anche un po' di gloria anche a noi. E le macchine, e le moto con Lorenzo che fa la riga, Valentino Rossi, tutte, e il tennis, proprio... Rafa Nadal, e il ciclismo e Contador, e vado avanti, e il calcio, campioni del mondo, campioni d'Europa, campioni di tutto, e il basket, e il Barcellona, e basta. Lasciateci un po' di gloria anche a noi, dai. Voi italiani avete già vinto qualche mondiale, noi vinciamo qualcosa qua. Poi se non avete lo strumento, idoli. Avete il pilota, perché la Ferrari, esatto. È Italia, però le macchine si mancano, vedi. Diciamo una Seat in Formula 1 non la vedrei proprio. No, assolutamente. Ma cosa è dovuta questa esplosione allo sport spagnolo? Strutture, mentalità, voglia di fare sport, penso voglia di tutto. Arrivare primi? Penso un po' tutto, cosa? Quello che è successo anche in Italia, diciamo. L'Italia è uscita da una dittatura nel 45, diciamo, nel 75, e quindi credo che sia proprio il momento storico giusto perché la gente abbia proprio voglia e perché ci siano ormai già le strutture giuste per potersi anche creare, diciamo, delle infrastrutture giuste per potersi allenare, per poter spingere lo sport, e credo che questo fa sì che vada un po' da solo, ecco. Sì, e va da solo, però va da solo, ma a livelli massimi. Sì, sì. Grande disciplina, grande organizzazione, sono bravi. Pensiamo però al Barcellona. Sì, vabbè, ma la Barcellona anche prima, diciamo, sono anni ormai. Questo l'ho detto giocano bene, di la verità, perché Barcellona? Perché i catalani non sono proprio spagnoli. Però i catalani vanno bene, anzi, io sono meglio il Barcellona che il Madrid. Meglio il Barcellona. Parla uno che è di Bilbao, ovviamente. Sì, l'Atletico Bilbao è una cosa talmente strana e talmente molto sui generis che ha un sacco di tifosi in giro. Sì. Certo, perché è un calcio, diciamo, che va al di là del calcio mercato. Non abbiamo... ha avuto mai, diciamo, dei veri stranieri, diciamo, tutti gli stranieri dovevano essere comunque di origine basco. E comunque quasi tutto, adesso credo che in questo momento è quasi tutto cantiere, proprio cantiera, tutta la gente del posto. E non siamo mai stati in Serie B, sempre in Serie A, da più di un centinaio d'anni. E c'è una forza proprio, lì è veramente testa, lì, sì, orgoglio l'orgoglio della terra. Sì, poi si discute molto anche delle cantere spagnole, perché in Spagna, sai, non c'è questa forse è il filo conduttore più importante: non c'è la paura di lanciare i ragazzini, di lanciare i giovani, di farli meno giocare. Meno male. Infatti, diciamo, io non sono tanto d'accordo con tenere lo sport di competizione come il calcio, poi, che è molto competitivo. Secondo me ci deve essere un riciclo, un po' come in tutto. Non parliamo poi di politica, col riciclo e non riciclo, però vabbè, secondo me ci vuole, perché l'energia nuova dei giovani, anche uno che abbia moltissima esperienza, non te la dà. E il calcio è fatto anche quello di sorprese, no? Sì. Qui in Italia devi essere Danilo Gallinari, invece. No, io dicevo, ma non credete che sia perché il tifoso italiano, per me, nel 90% dei casi, non ha fatto sport. Quindi tifa in una maniera, non è cosciente di quello che la squadra che sta facendo, sì, i giocatori possono realmente fare dal punto di vista fisico e tecnico. Ogni tanto mi capita di andare negli stadi. Come, sì, fai? Pensiamo a un allenatore che lancia un giovane di 17 anni in uno stadio come San Siro. Se li va male, se sbaglia due è già massacrato. Ma questo però è la cultura del tifoso. Sì. Non è l'allenatore. L'allenatore, per non bruciarlo, deve necessariamente fare una scelta di questo tipo. Ma in Spagna è così? In Spagna si tifa più per la squadra che per, diciamo, per il singolo giocatore o per, diciamo, l'allenatore, no? Diciamo, la squadra, anche quando si perde. Non lo so, io lo vedo comunque nell'Atletico Bilbao, si tifa la squadra proprio. Sì, sì, tu sei dell'Atletico, ci sia uno o ci sia l'altro. Sì, sì, sì, sì, chiaro. Però se hai fatto sport, per me hai molto più rispetto per certo, i giocatori e per la tua squadra. Certo, perché ti rendi conto poi della difficoltà, esatto, e veramente di cosa, cioè, il gesto ci vuole in sé lo condanni molto meno. E io continuo a pensare che se hai fatto sport guardi meno l'arbitro, perché sei troppo stanco per incazzarti. Assolutamente. Posso dire. Certo. Andrei avanti per ora, a chiacchierare abbiamo ancora un minuto. Mourinho sul surf lo vedresti? Secondo me sì, perché secondo me è testardissimo. Per fare surf bisogna essere testardi, sì, perché non è facile iniziare. E lui mi sembra una persona piuttosto caparbia, proprio bello testardo. Ricky, portiamo anche lui. Dai, anche lui. Dai. Anzi, Mourinho è portoghese, no? Sì. Grandi onde in Portogallo. Sì, sì, sì. Rispondiamo a questa domanda di un ascoltatore prima di salutare tutti. Sergio, rispondi tu. Si può iniziare a surf a 40 anni? E anche di più. Abbiamo visto adesso, appena chiamato uno sopra i 50, sì, esatto, quindi non credo rispondo ci siano limiti. Io l'ho iniziato a 30, ne dimostro 40, vedi, ringiovanisce il surf senza problemi. Ragazzi, grazie a te Carlo. Io finisco dicendo che respirare il surf fa bene alla salute. Esatto, l'aria di mare e anche l'acqua di mare fa benissimo. Dice, l'estate per allenarsi e poi a novembre. E poi si dà tutto a novembre. Grazie Carlo. Grazie a Sergio Muris, grazie a Riccardo Belli, Carmelo Auricella in regia, Giorgio De Luca in redazione. Ci sentiamo domani dalle 4:30 alle 7. Partiamo dal Gran Premio e poi chiacchieriamo tutto il pomeriggio. Ci sarà anche Andrea Zorzi. E poi domani sera c'è il basket, 8:30, 9. Solito appuntamento. A domani. Yeah.